seed. Sì, sì, sì. Sì, pari. Hey, questo è lo Scataparty, è il volume numero 3, la terza nostra puntata. Ma sono 3 anni che mettiamo musica. E quest'anno abbiamo di nuovo Italuzzo. Italuzzo insieme a Angela, i Bad Manners, qualcuno ha detto. Invece non è vero, sono i Mad Monkey. Io inviterei tutti quelli che hanno ormai la pancia piena a alzarsi dalle sedie, venire qua in pista, in mezzo a questo pilastro che domina la scena di questo edificio mastodontico, e ballare i pezzi che mette Italo, poi metterà Angela e poi metterò io anche. E io non metterò mai. E ricordo che, insomma, se facciamo una bella festa saranno felici anche tutte le persone che ascoltano questa festa su transizionedifase.org, che è una radio indipendente che viaggia sull'etere e arriva dove voi potete pensare, non lo so, pensate alla Giamaica, pensate all'Australia, pensate anche Doria o anche Cerchiare. Arriva ovunque questa nostra musica, quindi per favore venite qua in pista e ballate la musica Roots di Italuzzo. You're gonna light me up. There's a natural mystic flowing through the air. Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon. Enter it, yeah, true. And so it is until now.